Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e 9 minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana. I temi di questa giornata economico-finanziaria, partiremo dal rapporto Istat, rapporto demografico. Ve ne hanno già sintetizzato molti passaggi i nostri GR24. In realtà, come spesso diciamo, la demografia è oggetto economico, non è un oggetto sociologico, ma anche in particolare economico. E parleremo della riduzione dei residenti, per carità, ma anche del triplicarsi degli italiani che vanno all'estero ogni anno a cercare lavoro o non solo. Il dato è impressionante perché sono triplicati negli ultimi 6 anni. La cifra non è una cifra devastante, però insomma la progressione che lascia stupiti, oltre al calo delle nascite. Praticamente 115.000 connazionali nel 2016 si sono trasferiti fuori dai confini italiani, mentre da questo punto di vista continuano a calare le nascite. Tra l'altro si è toccato un nuovo record negativo dopo quello del 2015, ma ne parleremo perché insomma il tema poi riguarda anche le famose e mai applicate politiche per la famiglia. Parleremo anche dell'ILVA. Oggi è il giorno delle offerte, è scaduto alle 14 il termine per la presentazione delle offerte vincolanti per gli asset dell'ILVA, che resta in amministrazione straordinaria. Sono arrivati, come sapevamo, ci sono 2 offerte. L'offerta presentata intanto dal consorzio formato da ArcelorMittal all'80% e Marcegaglia al 20% prevede investimenti per 2,3 miliardi. Stiamo aspettando dettagli sull'altra offerta, quella che vede invece anche il gruppo Arvedi presente nella volontà di rilevare l'ILVA. E ripeto, di questo parleremo. Dopodiché invece un'operazione che si è già conclusa, perché è stato ufficializzato durante il fine settimana l'acquisizione da parte del gruppo Peugeot Citroën di Opel, che viene venduta da General Motors, Opel Vauxhall per essere precisi. E ne parleremo anche perché domani si apre il Salone dell'Auto di Ginevra, per cui da questo punto di vista ci sarà anche l'oggetto della discussione la prossima domani e anche stasera. La borsa intanto -1,12% Milano, -0,50% Parigi, -0,66% Francoforte, e per quello che riguarda Londra il calo dello 0,44%, -0,40% in questo momento il Dow Jones. Attenzione perché Milano perde un po' di più, quasi il doppio rispetto alle altre borse europee, nel senso che cedendo l'1,14%, Milano si colloca tra le ultime posizioni oggi, e lo fa soprattutto per via dei titoli bancari che avevano avuto un po' di recupero settimana scorsa. Banco BPM -4,31%, Unicredit -2,70%, Biper Banca -2,50%, e ancora Prismia -2,40%, Buzzi Unice -2,35%. Leonardo Finmeccanica -2,20%, Mediobanca -2,20%, ST Microelectronics -2,20% anch'essa, con un rapporto euro su dollaro sempre stabile a 1,05, siamo 1,05 e 9. C'è la vicenda Deutsche Bank che tiene banco, nel senso che il titolo è il peggiore anche a Piazza Affari, dove è quotato -8%, è il peggior titolo in assoluto, -8,11%. E beh, dopo l'annuncio di un aumento di capitale da 8 miliardi di euro, fa parte dell'operazione di pulizia, ne parleremo, del numero uno di Deutsche Bank. Tra l'altro segnalo che questo non ha influenzato le nostre banche, che si muovono su canali completamente diversi. 349-238-6666 per sms e whatsapp, poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Qualcuno già mi scrive: la parte demografica è l'effetto della crisi. Guardi, sicuramente il dato sui trasferimenti all'estero, perché la coincidenza, diciamo così, temporale non lascia molti dubbi. Triplicati in 6 anni, insomma, da quando la crisi si è capito che non sarebbe stata una crisi, ma un cambio strutturale e una rivoluzione vera e propria, non necessariamente in positivo per tutti, questo si è, il dato è incontrovertibile. Sul fronte demografico, invece, a mio avviso, si può anche ragionare di più, e lì forse la politica, che non può creare posti di lavoro per decreto, può creare le condizioni, ma sul fronte demografico invece noi vediamo che le politiche attive servono in Francia e servono in Alto Adige. Poi adesso vi arriveremo. Faccio solo notare che l'Istat nel suo rapporto segnala come il maggior numero di acquisto di biberon in questo paese, che dovrebbe essere un segnale abbastanza empirico per capire là dove si fanno più figli, a meno che uno non immagini che biberon se lo compri un adulto, è la provincia di Bolzano, e non a caso la provincia di Bolzano e anche la provincia di Trento, ma soprattutto Bolzano, sono le uniche che hanno un tasso demografico diverso, opposto a quello del resto del paese e simile a quello francese. Segnalo anche che proprio lì vi sono politiche molto attive per la famiglia. Gira, rigira, sempre di soldi andiamo a parlare quando parliamo di figli, non della scelta etica, della scelta di vita, ma poi di quanti figli fare, è inutile girarci attorno. Comunque andiamo con le notizie in breve. Allora, interessante quanto le notizie che arrivano dalla Cina, visto che c'è l'assemblea annuale con i 3.000 delegati del Congresso Nazionale del Popolo, perché il Premier ha detto che la Cina crescerà di meno anche nel 2017, ci fermeremo al 6,5% di crescita. Però ha detto, insomma, ha difeso la globalizzazione, interesse fondamentale di tutti. Pechino ha confermato il modello di collaborazione e interscambio che è già adottato in questi anni, ha aumentato del 7% il budget militare nel 2017, portando la spesa del cinese per la spesa militare cinese all'1,3% del PIL, e poi punta molto anche sull'investimento di carattere ecologico, cioè ha detto vorremmo che il cielo tornasse azzurro. Attenzione, perché lì abbiamo varie segnalazioni di imprese italiane ma anche tedesche, insomma, che stanno lavorando attivamente in Cina proprio su quello che è un tema e una sfida per il modello cinese, quindi come garantire questo sviluppo ma anche garantire un tasso di vivibilità delle città cinesi. Chi è stato in Cina sa che in alcune grandi città, insomma, è difficilissimo vedere il sole, nel senso che proprio non si vede, si vede solo l'inquinamento. Non arrivano buone notizie invece dalla Grecia. Drastica la revisione al ribasso del PIL greco, -1,2% l'ultimo trimestre del 2016, ci si aspettava un -0,4%, e questo rischia di mettere ulteriore pressione nei negoziati tra Atene e i creditori internazionali. In tutto il 2016 il PIL greco ha fatto -1,1%. E non voglio tornare sulla polemica se le ricette per adesso, le ricette della Troica, cioè le ricette della Germania sostanzialmente, stiano funzionando, no, non stanno funzionando. Vabbè, ma oggi non ho voglia di polemizzare subito sulla Germania e sulla Grecia. Andiamo invece all'Italia, dove il Ministero dell'Economia e Finanze segnala come le entrate fiscali del 2016 siano aumentate del 3,3%, oltre i 450 miliardi. Questo sia per il miglioramento della congiuntura economica, sia per l'effetto di alcuni importanti, leggo nel testo del Ministero dell'Economia e Finanze, importanti misure di contrasto all'evasione adottate dal governo nel corso degli ultimi anni. E comunque vanno bene anche a gennaio le entrate tributarie erariali, 35 miliardi più 2%, sono 652 milioni in più. E, tra l'altro, 82 milioni di euro arrivano dal canone RAI inserito in bolletta. Allora, il Premier Gentiloni, oggi insomma, ci sono stati varie dichiarazioni di Gentiloni anche via Twitter. Ha detto oggi firmo 24 accordi con sindaci per interventi sulle periferie. In effetti sono stati firmati accordi importanti, 500 milioni di euro per i 24 progetti migliori classificati per le periferie, in tutto 120 interventi. Dal governo arriveranno complessivamente 3 miliardi e 900 milioni di euro, perché il CIPE ha stanziato altri 800 milioni del miliardo e 600 milioni che servono, altri 800 faranno parte del fondo per le infrastrutture e poi saranno ai 2 miliardi e 100 verranno, quindi 800 dal CIPE, 800 fondo per le infrastrutture, 500 messe oggi dal governo e poi saranno aggiunti i fondi pubblici e privati per un totale di 3 miliardi e 900 milioni di euro per la riqualificazione delle periferie, stanziamento molto rilevante, come ha ricordato appunto il Premier Gentiloni. Qui ci sono i 24 che sono risultati i migliori classificati in questo bando per le periferie, 500 milioni è l'impegno che si materializza oggi, ma sapete tutti che il progetto riguarda 120 interventi, quindi altri 95 rispetto a quelli che oggi abbiamo firmato, e gli impegni economici, le disponibilità economiche per completare questo percorso ci sono. Abbiamo varato venerdì scorso al CIPE ulteriori 800 milioni del miliardo e 6 che serve a completare l'operazione. Gli altri 800 milioni fanno parte del fondo delle infrastrutture. Teniamo conto naturalmente che questi 2 miliardi e 1 complessivi per i 120 interventi saranno poi integrati da altri fondi pubblici di varia natura, locali e nazionali, e da fondi privati. Quindi l'insieme di interventi di cui parliamo oggi per i quartieri delle nostre città è un insieme che arriva a circa 3 miliardi e 9 e quindi è un insieme molto rilevante. Allora andiamo sul primo tema, il rapporto Istat sulla demografia del paese. Su questo si concentrano anche i 100 secondi di Radio 24 sulle 24 ore trasmessi anche su RDS oggi a firma del vice direttore sulle 24 ore Alberto Orioli. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alberto Orioli. Detta in modo scioccante suona così. In Italia sono più i morti dei nuovi vivi. Declinata con il linguaggio delle statistiche diffuse oggi dall'Istat, invece si deve dire che le nascite nel 2016 sono state 486.000 e i decessi 608.000. Si conferma che l'Italia è un paese in forte invecchiamento e a bassissima natalità, con un saldo negativo record tra nuovi nati e morti, anche se i decessi, per la verità, in numero assoluto sono diminuiti un po' rispetto al 2015. I residenti sono 60 milioni, con un piccolo sfrido sull'anno precedente di 68.000 unità. Gli immigrati sono poco più di 5 milioni, l'8,3% della popolazione totale, e continua a crescere il saldo tra quanti entrano nel nostro paese e quanti invece escono. In 6 anni poi sono triplicati gli italiani che si sono trasferiti all'estero e sono stati 115.000 soltanto nel 2016. Gli italiani hanno un'età media di 44,9 anni, gli over 65 superano i 13,5 milioni e sono ormai il 22,3% della popolazione. Gli ottantenni sono arrivati a 4,1 milioni e sono pari al 6,8 del totale, ma la sorpresa è negli ultranovantenni, che sono ormai diventati 727.000 e sono quasi raddoppiati rispetto a una quindicina d'anni fa. Del resto aumenta la speranza di vita, arrivata a 80,6 anni per gli uomini, con un aumento dello 0,5% sul 2015, e 85,1 per le donne, anche in questo caso con un incremento di mezzo punto percentuale. A Trento le donne più longeve, con 86,4 anni di vita media, e le residenti in Campania invece sono in fondo alla graduatoria con 83,5, e qui entrano in gioco i differenti standard di qualità nelle prestazioni sanitarie. insomma, un paese per vecchi, con quello che significa in termini di equilibrio nelle spese per il welfare e di atteggiamento verso l'idea stessa del futuro. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora, il tema lo ricordavano già i nostri 100 secondi, al 1 gennaio 2017 si stima che la popolazione italiana ammonti a 60.579.000 residenti, sono 86.000 in meno rispetto all'anno precedente, l'1,4 per mille. Il punto è che la natalità conferma la tendenza alla diminuzione. A livello minimo delle nascite, che già avevamo toccato nel 2015, 486.000, e viene superato, ahimè, in maniera negativa nel 2016, 474.000 nati, decessi 608.000, e quindi resta il saldo meno 134.000, un po' meglio del 2015, ma solo perché sono morti meno italiani, non perché ne sono nati di più, detto in maniera un po' brusca. Perché i decessi erano stati 648.000, cioè 40.000 in più, ed è per questo che è un po' meglio il dato sul saldo. Ma restiamo un paese che va non solo a invecchiare, ma soprattutto a diminuire la popolazione. E questo, diciamo, uno dice c'è poca notizia, però se sommiamo questo al fatto che siano triplicati in 6 anni il numero di italiani che si sono trasferiti all'estero, 115.000 con nazionali, il dato lascia tutt'altro che, diciamo, tranquilli. Allora, la riduzione delle nascite è stata del 2,4% in tutto il territorio nazionale, con l'eccezione della provincia di Bolzano, che registra un incremento del 3,2%. Il numero dei figli per donna si attesta a 1,34. Allora, vediamo di capire che cosa succede negli altri paesi. Beh, insomma, negli altri paesi succede che laddove hai politiche attive per la famiglia, hai tassi diversi di demografici. Le mamme francesi fanno 2 figli a testa, quindi le province di Bolzano hanno anche un livello simile, 2 figli a testa, grazie anche ai sostegni economici. Posso ricordarli un secondo, mentre ringrazio l'ex presidente dell'Istat e l'ex ministro al welfare e professor Enrico Giovannini per averci raggiunto in collegamento. Buonasera. Buonasera. Allora, in Francia, no, perché per parlare di cose concrete, sapete che sul tema della famiglia mi incavolo ogni tanto, perché di famiglia si parla in questo paese sempre a livello religioso, per carità, etico, politico, ma mai a livello economico, no? Perché è troppo prosaico parlare della famiglia in questi termini. Allora, le mamme francesi, visto che le politiche attive, le mamme francesi fanno 2 figli a testa grazie a un insieme di sostegni: 185 euro al mese più un premio da 930 euro alla nascita, cioè tu prendi 185 euro al mese e hai anche quasi 1000 euro alla nascita. Si chiama prestazione di accoglienza del bambino, viene elargito dopo il 4° mese di gravidanza in modo da permettere anche le spese iniziali, perché, e dura fino ai 3 anni di età. Poi ci sono gli assegni familiari per chi ha 2 figli, 129 euro al mese aggiuntivi. Per chi ne ha 3 si passa a 300 euro. Per chi ne ha 4 si va dai 4 in su a altri 166 euro. Poi lo Stato mette a disposizione grosse agevolazioni per avere la babysitter e la custodia del bambino. In Gran Bretagna, dove il tasso di fecondità non è a livello francese ma è comunque più alto del nostro, perché noi siamo a 1,34, in Gran Bretagna sono quasi a 2, a 1,92, faccio notare che i genitori per una famiglia da ceto medio con 2 bimbi arrivano gli aiuti a 3.200 euro l'anno. I genitori ricevono un contributo mensile di 100 euro per il primo figlio e 164 euro dal secondo in avanti. Allora, Giovannini, la domanda è molto semplice, al di là di tanta retorica, poi veniamo anche agli italiani all'estero, ma insomma, il problema sono sempre le politiche economiche per la famiglia o no? Sì, il fatto fatto è che mentre in alcuni paesi come la Francia che lei ha citato e non solo, c'è un approccio organico al problema e quindi c'è una struttura fiscale che aiuta, come lei ricordava, ma anche poi a livello locale ci sono delle agevolazioni sui trasporti e così via. In Italia abbiamo preferito andare anche recentemente sui cosiddetti bonus. Quindi si fa il bonus bebè, si fa altri bonus che magari aiutano delle persone che sono maggiormente in difficoltà, ma tutti questi bonus sono episodici, non sono strutturati in maniera tale da dare un chiaro segnale di scelta verso la famiglia nella sua completezza. E questo evidentemente influenza. Ricordiamo naturalmente che la crisi da noi ha colpito più duramente che da altri paesi, in altri paesi, e questo ha certamente influito sulle scelte riproduttive delle italiane in particolare. Ma questo è un fenomeno che durava anche prima della crisi e dunque è un fenomeno di lungo periodo che può essere cambiato soltanto con politiche strutturali a favore di famiglie. No, lei fa bene ricordare questo passaggio, perché il bonus bebè, per esempio, che prevede 80 euro al mese per ciascun figlio nato o adottato dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2017, per la durata massima di 3 anni, è partito il 1 gennaio 2015 per neomamme e famiglie adottive con un ISEE sotto i 25.000 euro, mentre per le famiglie a basso reddito fino a 7.000 euro l'importo dell'assegno raddoppiato e passa da 80 a 160 euro. Il problema è che, se ho ben capito, uno dice: io non è che posso fare un figlio sfruttando un bonus bebè che deve essere rifinanziato, cioè tu dovresti avere, ma non sarebbe più semplice, Giovannini, avere una politica invece di tanti bonus di qua, bonus di là, che poi assumono anche delle volte un significato elettorale, avere il famoso coefficiente familiare, per esempio? Familiare che ha un costo molto elevato, naturalmente, se applicato in Italia come in Francia costerebbe diversi miliardi, ma aiuterebbe, se questo aveva l'orientamento, certamente ad andare nella giusta direzione, magari riassorbendo tante spese che oggi si fanno in maniera disordinata, perché poi dobbiamo anche considerare le spese magari delle regioni o dei comuni, cioè di soggetti che poi, come è successo per la povertà ultimamente, in assenza o in carenza di politiche nazionali decidono di farli loro i bonus, e questo aumenta la confusione naturalmente. Ecco, questo cambiamento strutturale è uno dei cambiamenti che richiederebbero un profondo ripensamento della struttura fiscale, ma come altri, pensi al fatto che noi tassiamo moltissimo il lavoro e non tassiamo per esempio le emissioni, non abbiamo una carbon tax, quando sappiamo che invece questa è la direzione verso cui andare. E di queste settimane la discussione sul rimborso dei bonus, del bonus di 80 euro, tutto perché non si è voluto fare un ridisegno di aliquote o delle detrazioni, ma si è preferito, anche per motivi di rapidità, fare un bonus piuttosto che appunto ridisegnare le aliquote. Insomma, il disegno del sistema fiscale deve servire a diverse finalità, sia redistributive ma anche di sviluppo. Ecco, bisogna, spero che magari con la prossima legislatura chi vincerà le elezioni abbia una proposta seria, concreta, per disegnare un sistema fiscale con una logica di medio e lungo termine. Allora, ho ancora un paio di domande per lei però, Giovannini. La prima è perché, mi chiedono gli ascoltatori, ma perché lei non l'ha fatto lei quando era Ministro del Lavoro, cioè la parte del coefficiente familiare? Cioè la sensazione è che se ne parli molto anche i partiti di ispirazione cattolica, però poi non si sia mai, poi si arriva appunto agli 80 euro per il bonus bebè, agli 80 euro per chi è sotto i 20, cioè, ma sono tutte misure spot. E la seconda domanda che allego è in realtà quanto influisce anche la prospettiva economica. Molti mi scrivono: ma cosa volete che facciamo figli se poi dobbiamo fare diventare dei disoccupati? Io non so però se nell'idea del figlio uno ragioni così a lungo, cioè da qua a 18 anni, o non ragioni un po' più a breve, da qua ai prossimi 5-10 anni. Prego. Ma intanto quello che ho fatto è l'introduzione di un sistema per la povertà, che è ancora l'unico che consente adesso finalmente di sostenere chi è veramente in condizione di indigenza, ma ricordo anche che il governo Letta, di cui ho fatto parte, era ancora impegnato nel tenere il deficit sotto il 3%, per evitare l'inflazione al fiscal compact. Successivamente sono invece stati destinati ingenti risorse, ricordiamo che gli 80 euro sono costati 10 miliardi all'anno e continueranno a costare 10 miliardi all'anno da qui all'eternità, ecco, quelle risorse avrebbero potuto effettivamente essere utilizzate in quella direzione. Il secondo aspetto riguarda le scelte riproduttive. Le scelte riproduttive sono la combinazione di molti fattori culturali, ma anche naturalmente di prospettiva economica. Bene, quello che sappiamo dalla letteratura è che al di là dei bonus o dell'aiuto fiscale, sono i servizi pubblici a giocare un fortissimo ruolo nell'avere donne che si rendono disponibili e hanno voglia di fare figli. Pensiamo agli asili nido, pensiamo ad altri aspetti su cui molte regioni italiane sono terribilmente indietro. Quindi al di là dei trasferimenti monetari è la qualità e la quantità di servizi, in particolare all'infanzia, su cui noi siamo molto indietro. Allora, molti mi fanno notare, magari questo dato è ancora più negativo se si levano, diciamo, gli immigrati, che magari per cultura hanno una tendenza, anche per abitudine, a fare più figli. Sì, anche se anche le immigrate hanno rapidamente, come sempre succede in questi casi, assunto dei comportamenti molto simili a quelli delle donne di residenza, di nate. Senta, ma 25.000 euro di limite non è un po' poco per, se uno paga le tasse onestamente, per avere, diciamo, il bonus bebè? Perché 25.000 euro per fare, insomma, anche il secondo figlio, ma non so, no? Beh, 25.000 euro è anche il limite per il bonus degli 80 euro, è un valore di riferimento, se ne potevano scegliere degli altri, che certamente è stato scelto anche in funzione delle disponibilità economiche. Quello che a me sorprende è che questi 80 euro sono diventati, diciamo così, il riferimento di tutto, cioè tutto si fa come multipli di 80 euro. Sì, vabbè, in realtà non ha molto senso, devo dire. Un'ultima domanda, Giovannini, però quanto contano invece le agevolazioni non di carattere economico, quindi fiscale in senso, o anche di aiuto vero e proprio, ma di carattere, diciamo, di welfare più ampio? Mi spiego. Le madri possono godere in Italia in media di 54 settimane tra congedo e maternità obbligatorio, e nell'OCSE, nei paesi OCSE, sono 54 settimane tra congedo e maternità obbligatorio e congedo parentale facoltativo. In Italia sono 7 settimane in meno, ma se si guarda il congedo riservato ai padri, in Italia c'è un massimo di 3 giorni, di cui solo uno obbligatorio, che sarà 2 ma per i soli figli nati nel 2016, contro le 8 settimane della media dei paesi OCSE. Se poi aggiungiamo che la nostra media di copertura degli asili nido si ferma al 29% tra posti disponibili e asili reali, molto di sotto la media OCSE, quanto costa congedo parentale e asili nido? Quanto conta congedo parentale e asili nido? Conta moltissimo, soprattutto perché in alcuni paesi quel congedo, soprattutto per le madri, può essere anche in qualche modo ritardato se necessario. Però ci sono misure di welfare, come lei giustamente ha chiamato, non puramente economiche, che aiutano, ma pensiamo anche al fatto che molte donne, soprattutto nei paesi nordici, dopo la maternità preferiscono un part-time, sapendo che poi però, quando i bambini saranno più grandi, potranno passare a un full time o tornare a un full time. Vista la situazione del mercato del lavoro in Italia, invece una donna ci pensa bene prima di rinunciare a un full time, perché poi ritrovare un posto di lavoro come quello può essere molto molto difficile. Quindi è insieme la situazione di funzionamento del mercato del lavoro, le questioni di welfare, soprattutto in alcune regioni, ricordiamo che soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno la situazione di asili nido è assolutamente ridicola, purtroppo, e il costo di fare appunto una scelta di maternità. Allora, grazie intanto Enrico Giovannini, poi dopo il metro ho precisato qualche risposta anche agli sms sugli asili nido. Sì, certo, ma voi pensate, voglio dire una cosa che magari può sembrare così un po' populista, ma pensate a tutti i soldi sprecati, rubati, di cui raccontiamo ogni venerdì da parte delle regioni, degli enti locali, anche del governo centrale. Immaginate quanti asili nido, non sono neanche in grado di quantificarli, avremmo potuto costruire. è un po' demagogico, un po' populista. Intanto se rubassimo meno e spendessimo meglio, dopodiché una politica vera per gli asili nido in questo paese non l'ho mai vista. Ma abbiamo avuto una cosa devastante a inizio anno sugli insegnanti di sostegno, con una denuncia per cui non c'erano abbastanza insegnanti di sostegno e ruotavano come delle trottole e venivano cambiati, che è ovvio, no? Un insegnante di sostegno, cosa c'è di meglio che cambi per un bambino che ha dei problemi ogni mese? È questo che mi dà fastidio di questo paese, tutti si riempiono la bocca sui figli e nessuno fa una mazza. Dai, meteo. State ascoltando un programma offerto da JP Morgan Asset Management. Focus Economia. Allora, molti messaggi arrivano sul tema di apertura al 349-238-6666, sia su WhatsApp che come SMS. Dunque, d'accordo che la soglia di 25.000 euro sia... Allora, ci sarà sicuramente chi è in quella soglia e ne ha un beneficio, parlo del bonus bebè, ma è anche chiaro, io sono d'accordo con gli ascoltatori, che è una soglia talmente bassa che è ovvio che è quasi un trucco, cioè tu non vai a fare un figlio con quella soglia lì in più solo perché prendi 80 euro, cioè tu sei già a 25.000 euro, su, non sono queste le politiche attive, basta pigliarsi per i fondelli. Dopodiché servono gli 80 euro al mese, che sono 960 euro all'anno per chi è sotto i 25.000 euro, ma se pensiamo che questa sia la politica attiva per la famiglia, ma dai, su. Poi qualcuno mi scrive sulle l'aborto, le coppie, le unioni civili, ma possiamo stare sui temi, per favore? Sempre il benaltrismo in questo paese. C'è una legge dello Stato che prevede l'interruzione di gravidanza? E allora si rispetta la legge, ok? Io, figuratevi, sono anche contro l'obiezione di coscienza. Vai il medico, se no vai a fare un'altra cosa in vita tua, no? Dopodiché, e si rispetta la legge? C'è una legge sulle unioni civili e si rispetta la legge. Il problema è che i figli non è che vengono fatti perché c'è la legge sulla interruzione di gravidanza o c'è la legge sulle unioni civili. Sempre sta retorica del cavolo, buttare tutto quanto a livello religioso e etico. Non si fanno i figli perché non ci sono i soldi, perché non scarichi gli asili come fai in Francia, va bene? Quanto costa un asilo privato, visto che la copertura nazionale di questo bellissimo paese garantisce i posti disponibili negli asili nido al 29,1%, vuol dire che il 70% dei neonati, alla faccia della retorica sul bambino, hanno l'asilo nido, se lo devono pagare i genitori, chiaro? Poi le unioni civili, ognuno la pensi come cavolo vuole, ma non è questo il tema. Il tema è perché per chi vuole fare i figli e vuole fare più figli non esiste un tipo di assistenza e agevolazione, non assistenza, scusatemi, agevolazione. E poi è chiaro che, rispondo anche al gruppo ad altri messaggi, è chiaro che la politica in questi anni ha avuto il respiro, diciamo così, di un pettirosso, perché il governo Monti doveva garantire all'Europa che non saremmo falliti, il governo Letta, appunto, diceva prima Giovannini, eravamo ancora alle prese con il deficit, il governo Renzi si è preoccupato di dare bonus di breve respiro perché tutta la politica per le scuole, gli asili, non ho visto nulla, non l'avrò visto io, e quindi gli 80 euro piuttosto che l'IRPEF o altre forme, diciamo, di medio termine. Il governo Gentiloni, insomma, gestisce e andiamo avanti così. È chiaro che se tu vuoi invertire un tasso demografico deve avere almeno una progettualità che non vada, diciamo, alle prossime elezioni di giugno, di agosto, di settembre, di ottobre, e non mi sembra che il paese abbia nessuna progettualità su questo fronte. Poi mi dicono non essere così negativo, ho capito. Allora andiamo avanti, dai. E andiamo alla borsa, dove c'è Andrea Fontana, Radio Corriere Sole 24 Ore. C'è, solo per dirmi buonasera, perché ho già il traffico. Buonasera Andrea. Buonasera Sebastia. Allora andiamo però un attimo sulla giornata. Meno 1% Milano, meno 0,46 Parigi, meno 0,60 Francoforte, meno 0,34 Londra, meno 0,40 il Dow Jones. 1,05 rapporto di cambio euro su dollaro. Oggi un po' di realizzi sui bancari, un po' di correzioni, ma erano... E poi la vicenda Deutsche Bank, di cui ci parlerai dopo il traffico. Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta Focus Economia. Allora, Andrea Fontana, dicevamo Deutsche Bank che ha preso una bella scoppola oggi, meno 8% dopo gli 8 miliardi di aumento di capitale annunciati, ma non mi sembra che sia questo il motivo dei realizzi su molti titoli bancari, però correggimi magari se sbaglio. No, sicuramente diciamo la giornata di la sorpresa di Deutsche Bank, che era arrivata con le prime indiscrezioni nell'ultima fase della negoziazione di venerdì, non ha certamente contribuito diciamo a una buona giornata per i bancari, ma stiamo parlando soprattutto per i bancari italiani di un settore che ha guadagnato il 13% nell'ultima settimana, e con Unicredit che diciamo post successo dell'aumento, anche se mancano ancora i dati ufficiali per quanto riguarda la nuova composizione dell'azionariato, che ha guadagnato il 15% nell'ultima settimana. Quindi attese le indicazioni che sono arrivate dalla Federal Reserve sul rialzo dei tassi di interesse nel mese di marzo, molto probabilmente i mercati nel suo complesso hanno tirato il fiato e quindi hanno portato delle prese di beneficio tanto in Europa quanto anche a Wall Street, che è ancora in flessione di circa mezzo punto percentuale, e sul bancario italiano c'era molto da prendere beneficio, almeno per quanto riguarda l'andamento dell'ultima settimana, tant'è vero che Banco BPM, la BPER e la stessa Unicredit hanno segnato perdite tra il 3 e il 4%. Sì, poi c'è tutta la vicenda, il settore auto, non la vicenda, dove Peugeot Citroën ha ufficializzato l'acquisto di Opel, ne parleremo fra poco, domani inizia per la stampa in realtà il salone dell'auto di Ginevra, e immagino che si parlerà anche di questo. Il settore auto come si è mosso? Ma il settore auto nel suo complesso in Europa è stato piuttosto fiacco, ha perso lo 0,6%, ma questa mattina per esempio Fiat era arrivata a guadagnare oltre l'1% e poi è stata un po' presa dai realizzi, così come il resto del settore. Va detto che su Fiat sono molti gli interrogativi seguiti all'operazione Peugeot-Opel per questo motivo, perché alcuni operatori pensano che il fatto che General Motors si sia sostanzialmente ritirato dall'Europa vendendo sia Opel che Vauxhall e che quindi sia improbabile un'operazione Fiat Chrysler GM, come era negli auspici di Marchionne fino alla fine dello scorso anno, e chi invece pensa proprio che il fatto di essersi liberato di un asset in perdita come quello di Opel, in perdita da oltre 15 anni, apra le porte in un futuro magari non strettamente in vista, ma però magari in un orizzonte di 1-2 anni a un'operazione più importante con Fiat Chrysler, e che quindi faccia di Fiat il vero partner europeo adesso, di General Motors. Adesso ne parleremo. Molto bene le poste italiane oggi, più 4,60. Sì, l'indiscrezione sulle 24 ore sul riassetto della quota del tesoro ha dato molto il via agli acquisti su questo titolo. Il tesoro da tempo pensa nel suo pacchetto di privatizzazione di collocare in borsa il restante 30% che gli rimane di Poste Italiane. Nel weekend sulle 24 ore ha sottolineato che questa operazione potrebbe o slittare nel tempo, o addirittura, come già avvenuto per una prima tranche di azioni in mano al tesoro, essere trasferito a Cassa Depositi e Prestiti, ma all'interno di questo riassetto, quindi non finire sul mercato, ma all'interno di questo riassetto ci potrebbe essere spazio per un dividendo straordinario. E su queste due possibilità, dividendo straordinario e quota che non finisce sul mercato, si è tornati a comprare Poste Italiane, che si è un po' risvegliata in area 6,3 euro dai 6 euro dove viaggiavo ormai. Allora, bene, Salvatore Ferragamo più 0,80 come Moncler, Italgas, oltre a Banco BPM meno 4,15, dicevo Prismia meno 2,75 come Biper Banca, Unicredit meno 2,5 come Buzzi Unicem, il 2,20 lo perde Steam Microelectronics e anche Leonardo, ex Finmeccanica, Ferrari meno 2 come Jux Net-a-Porté, migliori e peggiori in assoluto, TAS più 28%, Pininfarina più 24%, Gruppo Green Power più 17%, I Grandi Viaggi più 13%, Fedon più 9%, peggiore appunto Deutsche Bank meno 8%, Telesia meno 6,60%, Casta Diva Group meno 5,20%. Grazie Andrea Fontana, Radio Cori, Sole 24 Ore. Allora, facciamo solo il punto, poi lo riprendo dopo il GR24 con Domenico Palmiotti in collegamento con noi da Taranto. Buonasera Domenico, buonasera Sebastiano, perché era arrivata in giornata la prima delle due offerte, quella del consorzio, parlo dell'ILVA, oggi scadeva alle 14 il limite per le due, per l'offerta per rilevare l'ILVA. La prima, quella che arriva dal consorzio ArcelorMittal, quindi colosso indiano, e Marcegaglia, ArcelorMittal metterebbe l'80% e Marcegaglia il 20%, prevede investimenti per 2,3 miliardi. Pochi istanti fa è arrivata anche l'altra? Sì, gli stessi commissari dell'ILVA hanno annunciato che sono arrivate due offerte per l'acquisizione dell'azienda, quindi sono in campo sia AM Investco Italia, che ha parlato con Marcegaglia, sia Acciaia Italia, che vede insieme Jindal, Arvedi, Cassa Depositi e Prestiti e la Delfin di Leonardo Del Vecchio. Ci racconti tutto dopo il GR24, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Ascolto Gianluca perché smettiamola con questo pippamentalismo radicale. Perché parla pure dei Roni. Perché non sono un'anima in pena, sono un'anima in piena. Io ascolto Gianluca perché, guarda, sono tre giorni che provo a chiamare, non me lo ricordo neanche più. Perché la vita è una giostra che va. Perché la libertà d'espressione è bella, ma non ci vivrei. Ascolto Gianluca perché in bicicletta non sono lento, sono diversamente veloce. Melog. Ogni giorno a domande inedite ricevo risposte autentiche. Melog, cronache meridiane di Gianluca Nicoletti, dal lunedì al venerdì alle 12 su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Italia Legno e Energia, Fiera di Arezzo, 24-26 marzo. State ascoltando un programma offerto da JP Morgan Asset Management. Focus Economia. E 8 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, stavamo ragionando delle offerte per l'ILVA, dicevamo Domenico Palmiotti, scadute alle 14, ArcelorMittal e Marcegaglia. ArcelorMittal metterebbe l'80%, il gruppo Marcegaglia il 20%, prevede investimenti per oltre 2,3 miliardi di euro nell'ILVA, oltre al prezzo d'acquisto, l'intenzione di arrivare a produrre 9 milioni e mezzo di tonnellate di prodotti finiti. E poi anche l'impegno, se ho ben capito Domenico, a realizzare un nuovo centro di ricerca e sviluppo a Taranto, certo. E implementare nuove tecnologie. Per far capire a tutti, invece l'altra è Acciaia Italia, che è fatta dal... c'è un indiano anche lì, no? JSW Steel, e poi il 27% di Cassa Depositi e Prestiti ed è il fine il 10% del gruppo Arvedi. Qual è la differenza da quello che si è capito nelle due offerte e quando arriverà la risposta finale? Allora, cominciamo dalla risposta finale. La risposta finale dovrebbe arrivare entro 30 giorni, stando alla tempistica annunciata dai commissari. Adesso il primo passo che faranno i commissari è quello di inviare le offerte al loro advisor, Rothschild, per vedere appunto se le offerte sono in linea con quanto deliberato dalla procedura. Poi subentrerà l'advisor finanziario, che è Banca Leonardo, che deciderà se l'offerta avanzata dai due gruppi è congrua e se il loro piano industriale è sostenibile in una prospettiva di medio e lungo periodo. Diciamo che oggi ArcelorMittal ha fatto un passo avanti, ha migliorato la sua proposta rispetto a quanto era noto nelle ultime settimane in due punti. La prima, che rifarà l'altoforno 5. Jindal aveva detto subito che avrebbe rifatto l'altoforno 5, fino a due settimane fa invece ArcelorMittal lo escludeva. L'altoforno 5 è il più grande d'Europa ed è quello con una potenzialità produttiva maggiore di tutta l'ILVA di Taranto. Il secondo punto è che ArcelorMittal e Marcegaglia hanno nella loro compagine adesso Banca Intesa e quindi diciamo hanno anche loro un partner finanziario, così come ce l'hanno gli altri con Cassa Depositi e Prestiti. Cosa farà la differenza da ora in poi? Sicuramente i piani industriali e ambientali nella valutazione complessiva di insieme, cioè quanta occupazione terranno ArcelorMittal con Marcegaglia e quanta occupazione terrà Jindal con Arvedi e gli altri soci. E poi la prospettiva di investimento ambientale, cioè come si interverrà per ridurre l'inquinamento, perché non dimentichiamo che il governo ha posto come priorità, ed è la valutazione che guiderà tutte le altre, l'aspetto ambientale, la riduzione dell'inquinamento, e qui le proposte differiscono, perché ArcelorMittal rimane chiuso sulla prospettiva di decarbonizzare l'Ilva, cioè aprire ad una riconversione fatta da gas preridotto e forni elettrici, mentre Jindal dice: io produrrò 6 milioni con l'attuale ciclo integrale di altoforno e però introdurrò altri 4-5 milioni di produzione nel tempo col forno elettrico, il preridotto che farò a Taranto e il gas. Questo è un punto non di poco nella valutazione delle due offerte. Ecco, va detto che da questo punto di vista comunque andrà a finire, ci sarà una maggioranza relativa in mano a un gruppo indiano, nel senso che pur con la importante partecipazione nell'offerta della sommità di Marcegaglia che è al 20% e nell'offerta di Acciaio Italia di Arvedi col 10% e CDP e Delfin, quindi Cassa Depositi e Prestiti e del vecchio del 27,5%, in ogni caso l'azionista di maggioranza relativa sarà indiano. Questo è indubbio, l'azionista di maggioranza non sarà italiano, però voglio dire già dall'inizio si profilava per la complessità dell'operazione, per le risorse enormi che questa operazione richiede. ArcelorMittal oggi ha detto per esempio che vuole investire 2 miliardi e 300 milioni, ecco, per tutti questi elementi era evidente che occorrevano grandi player internazionali per affrontare la complessità della sfida di Ilva. L'importante però è che l'Italia con due gruppi sia in campo in questa partita, con Arvedi e con Marcegaglia. Siamo d'accordo, a questo punto manca un mese e risolveremo, immagino, anche la vicenda dell'Ilva. Grazie Domenico Palmiotto, grazie in collegamento con noi da Taranto. Invece noi ci spostiamo a Ginevra, da Taranto a Ginevra, perché? Perché domani apre per la stampa e gli operatori di professione il Salone dell'Auto di Ginevra, ma apre con una notizia confermata, ufficializzata, ne parliamo da giorni, ossia non dico una delle ultime, ma sicuramente un'operazione che va un po' a rimescolare le carte nel mondo dell'auto e quindi è realizzata in tempi anche brevi per quelle che sono operazioni nel mondo dell'auto, quasi un'operazione lampo. Peugeot Citroën che con 1,3 miliardi di euro compra da General Motors la Opel Vauxhall, e anche poi c'è una joint venture paritetica con BNP Paribas per le attività finanziarie europee di General Motors che vale altri 900 milioni di euro. Con questo Peugeot Citroën diventa il secondo costruttore automobilistico europeo dietro a Volkswagen, e al terzo posto c'è Renault. Forse è esagerato, chiedo ad Andrea Malani in collegamento da Ginevra, se questa operazione non è destinata a, non dico rivoluzionare, ma a modificare un po' tutti i vari assetti nei soggetti, nei players, come si chiamano in gergo, del settore automobilistico. Buonasera Andrea. Buonasera a tutti. Beh, diciamo che innanzitutto è un'operazione come se ne vedono poche. Le ultime operazioni di queste dimensioni tra due attori europei del settore auto risalgono agli anni 80 e 90, cioè Fiat Alfa Romeo, BMW Rover, la stessa Peugeot quando comprò la Citroën, forse ancora qualche anno prima. Dopodiché di fatto non ce ne sono più state, un po' perché gli attori sono oggettivamente pochi e un po' perché appunto finora ci sono state grandi resistenze, nazionalismi, lo sappiamo, varie vicissitudini, trattative andate a male. Quindi è una cosa molto importante ed è una sfida enorme. Io ho parlato di appunto, ho detto che intanto è una sfida, un accordo franco-tedesco, che non è un'altra cosa molto rara, è una delle più grandi acquisizioni francesi in Germania, e sappiamo quanto i tedeschi siano convinti di fare le migliori auto del mondo, anche quelle della Opel, quindi non sarà facile gestire, il manager che guida la Peugeot, gestire l'operazione. Lui è stato molto abile, ancora stamattina ha ribadito che mantiene tutti gli impegni, non ci saranno tagli, non ci saranno chiusure, almeno fin quanto Opel aveva promesso, cioè fino al 2020. Dopodiché dice, diamo a tutti la possibilità di competere, ma ricordiamo che questa è una competizione, quindi Open, in sostanza tradotto, deve diventare competitiva insieme a noi, altrimenti dopo il 2020 i tagli ci saranno, lui non l'ha detto, ma tutti lo sanno, ed è per questo che sia in Germania sia in Inghilterra, dove ci sono altre due fabbriche della Opel, qualche preoccupazione c'è. L'impatto invece sul resto del settore, almeno inizialmente, non sarà enorme, anzi c'è la possibilità che qualche concorrente, tipo la Renault, la Volkswagen, la stessa Fiat, possa magari in qualche mercato approfittare delle difficoltà che inevitabilmente ci saranno nel mettere insieme tre marchi, lo ricordiamo, Peugeot, Citroën e Opel, che insistono praticamente sugli stessi segmenti di mercato e hanno un'immagine diciamo allo stesso livello, sono cosiddetti marchi generalisti. Quando succede una cosa del genere, quando c'è qualche difficoltà iniziale, inevitabile, di solito ne approfittano i concorrenti, che probabilmente qui a Ginevra sono già lì che si stanno fregando le mani. Ovviamente poi non è una gara di sprint, ma è una maratona, quindi si vedrà tra, diciamo, 5 anni. Se la scommessa sì, devo dire che ha ricevuto oggi anche l'ennesima benedizione del premier francese Hollande, che ha detto nasce un campione dell'Unione Europea. Tra l'altro Hollande stasera riceverà sia la cancelliera tedesca Angela Merkel, che il premier italiano Paolo Gentiloni, che il premier spagnolo Mariano Rajoy a Versailles, campione europeo dell'automobile. E vabbè, abbiamo detto molte volte che a convincere il potentissimo sindacato tedesco IG Metall è stata anche la garanzia, come tu ricordavi, sui posti di lavoro. E in una battuta, ma la Fiat in questo? Beh, la Fiat rimane in cerca di un partner molto più grosso. Sergio Marchionne lo ha detto e lasciato capire molte volte negli ultimi 2 anni, cioè lui è per un consolidamento su scala globale e quindi lui puntava a GM, che gli ha detto certo. Di no. Diciamo che l'operazione di oggi non esclude un eventuale ritorno all'assalto di Marchionne o un'accettazione da parte di GM. In fondo GM con questa operazione si libera di un peso, ma esce dal mercato europeo, certo. Che è comunque un mercato molto importante e molto competitivo. Non è detto che voglia barra possa rimanere fuori dall'Europa a lungo. Stavolta ha scelto la redditività, quindi sicuramente ha fatto la strada che ritiene più giusta. Quindi per Fiat c'è ancora un'attesa, però diciamo che nel medio periodo, date le dimensioni di Fiat Chrysler, che è poco più grande di Peugeot Opel adesso, 4 milioni e 7 di veicoli contro 4 milioni e 3, contro i colossi che stanno a 10 milioni e oltre, qualcosa dovrà essere fatto. Allora, poi magari nei prossimi giorni parleremo anche delle novità di questo Salone dell'Auto, che domani appunto apre anche per la stampa. Grazie intanto Andrea Malan in collegamento con noi da Ginevra. Andiamo sul traffico e poi la politica, le dichiarazioni del premier Gentiloni ieri e anche oggi con la vicenda. Oggi non ci sono grosse novità sulla vicenda Consip, Romeo non ha voluto parlare, però insomma sullo sfondo resta, insomma, la progettualità, mettiamo così, del governo in carica. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta Focus Economia. Abbiamo molte cose da completare che ha fatto il governo Renzi e anche delle cose nuove importanti. La scadenza è la fine della legislatura, certo. Poi naturalmente i governi possono anche finire prima del termine della legislatura se non hanno la maggioranza in Parlamento. Però io dico sempre anche ai miei colleghi ministri che noi dobbiamo lavorare non avendo in mente la durata del governo, ma avendo in mente le nostre responsabilità. E se dovessi immaginare un aggettivo per il governo che ho l'onore di presiedere, mi piacerebbe che fosse un governo rassicurante. Allora, è comprensibile la posizione del primo ministro Gentiloni. Il problema è che per rassicurare servono anche i fatti, e quello che leggiamo nei giornali, che stiamo raccontando anche sulla vicenda Consip in questi giorni, è tutto tranne che rassicurante. Giro la domanda e la riflessione, per così dire, a Guido Gentili, editorialista del Sole 24 Ore. Buonasera Guido. Buonasera a voi. Che ne ha scritto anche sul Sole 24 Ore. Allora, prima domanda molto semplice, al di là degli sviluppi giudiziari, appunto oggi Romeo ha detto non ha voluto rispondere alle domande del GIP, l'avvocato ha detto lui è una vittima, uno che è stato fregato, altro che corruttore, io è stato danneggiato anche nel passato, abbiamo fatto un esposto anche all'ANAC, non ha mai conosciuto Tiziano Renzi, e via così. Il problema è, poco fa è arrivata la conferma che correranno invece in tre per le primarie del PD, si è scritto appunto anche Renzi. La vicenda Consip è in realtà come può influire sulla progettualità appunto di cui parlavamo del governo Gentiloni? Ma dunque, in senso generale occorre sempre tenere presente che il governo Gentiloni è un governo dichiaratamente entrato in funzione all'insegna della continuità politica con il precedente governo appunto di Renzi, e diciamo Gentiloni era il ministro degli esteri di quel governo, quindi c'è un dato di continuità politica su cui Gentiloni ha sempre insistito fin dall'inizio, ma Gentiloni non è Renzi, non lo è come stile, come cifra personale, come stile, come diciamo anche stile di condotta, diciamo come capo del governo. E quindi Gentiloni diciamo ha a che fare con una situazione diciamo completamente diversa per certi aspetti dopo proprio la sconfitta del governo Renzi sulla questione del referendum. È un quadro politico anche cambiato, equilibri interni al partito di maggioranza, cioè il PD, che sono in questo momento cambiati. Sappiamo tutto quello che sta succedendo da questo punto di vista verso le primarie e le elezioni per il candidato alle prossime elezioni, e c'è una situazione economica da governare con molta attenzione in un momento particolarmente delicato anche di incertezze di quadro internazionale. Quindi è evidente che questo scossone Consip che chiama in causa non solo un cognome importante, quello di Renzi attraverso il babbo Tiziano, ma anche la figura ad esempio del ministro del governo Lotti, Gentiloni, certo, che è Luca Lotti, e beh insomma questo è evidente che non possiamo, lo stesso Gentiloni lo ha detto, cioè non è che possiamo far finta di però nulla. Paradossalmente Guido, insomma, tu che sei abbastanza navigato sui temi della politica, se la debolezza delle volte allunga la vita, non l'accorcia, voglio dire, se in questo momento, non so se mi sto facendo capire, è ovvio che l'opposizione, soprattutto devo dire Forza Italia, no, l'ho detto in maniera molto chiara, ma Lega e 5 Stelle chiedono le elezioni il prima possibile, e di mezzo c'è anche il tema dei vitalizi risollevato. Però dico, delle volte la mancanza di una maggioranza forte in questo momento nel PD non potrebbe allungare la vita a Gentiloni? Beh, certamente. Innanzitutto noi abbiamo alle spalle una storia, la cosiddetta Prima Repubblica, dove abbiamo visto tanti governi molto deboli che però diciamo andreottianamente diciamo era preferivano tirare a campare che tirare le cuoia. Sapevo che arrivavi lì. Questo è stato un classico diciamo della Prima Repubblica. Allora fammi fare la battuta, il problema è che quando i governi tirano a campare invece che tirare le cuoia, però tira le cuoia al paese, perché poi manca qualunque tipo di progettualità. Infatti stavo aggiungendo, il problema è che qui noi abbiamo a che fare con una serie di problemi così grandi, tipo per esempio l'impostazione della politica economica per l'anno prossimo, il rapporto con l'Europa, in particolare quella fiscale, cioè capire se Gentiloni esatto. Fa fiscale. La manovra sull'IRPEF, ho capito. Esatto, vediamo con come. La questione anche diciamo delle clausole di salvaguardia fiscali da dover decidere se disinnescarle ancora una volta oppure no, insomma, che cosa fare, insomma è una partita che vale solo per il 2018 oltre 19 miliardi, e quindi è chiaro che tirare a campare così propriamente come si faceva un tempo non è possibile, e quindi da qui diciamo anche l'insistenza di Gentiloni in questo momento di dire io vado avanti, sono impegnato nell'attività di governo e ho anche un orizzonte diciamo di politiche riformiste da mettere in campo. Sì, e a questo punto, visto che tu come una specie di piccolo radar palpi anche e ascolti gli umori della politica romana, ma la data per le elezioni, nel senso che la 5 Stelle, ripeto, Lega, sono per farlo, visto la dichiarazione di Salvini, già a giugno, si sta allungando, andremo a scadenza naturale? Prego. Allora, si sta diciamo allungando negli auspici anche che il decreto della Presidenza della Repubblica è di arrivare al 2018, come ha confermato lo stesso Gentiloni. Su questa strada però ci sono anche delle incognite, non dobbiamo negarlo, perché diciamo la traiettoria parlamentare di questo governo non è probabilmente una strada in discesa, perché proprio lo scandalo Consip e diciamo, con tutto quello che significa anche anche la minoranza del PD che è uscita, una parte della minoranza del PD che è uscita, ma anche il contributo al Senato dei deputati del gruppo di Ala, cioè di Denis Verdini, questo è tutta, è una partita tutta da vedere in termini di numeri al Senato, cioè la situazione non è propriamente di riposo sul piano parlamentare. E quindi al di là di quelle che sono le indicazioni generali politiche che Gentiloni vuole andare avanti, eccetera, ma bisogna sempre tener conto, e lo stesso Gentiloni lo abbiamo ascoltato prima nell'intervista che ha rilasciato ieri a Domenica In, ha detto, dice, salvo che ovviamente la maggioranza abbia i numeri in Parlamento nel frattempo. Questa è la vera incognita, diciamo, che c'è. Sì, e quindi bisognerà continuare, lo dico, sembra un po' così rinunciatario, ma navigare a vista, anche perché l'inchiesta Consip, secondo me, se va avanti così qualche altra sorpresa ce la regalano, non so nulla, ma vado diciamo per intuito. Il problema è capire, visto che ieri intervistato Pippo Baudo, Gentiloni ha detto nel DEF l'obiettivo è abbassare le tasse sul lavoro, di quanto, con che risorse. Io temo che il navigare a vista non ha mai portato, e temo che potrà non portare anche questa volta a grandi scelte di politica economica, perché quelle hanno bisogno di anni e un po' di prospettiva. Comunque, grazie Guido Gentili, editorialista del Sole 24 Ore, è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia, che torna domani dalle 17 in poi. Intanto da Sebastiano Barisoni, l'auguro di buona serata. Radio 24, libera la voglia di fare.